ne mane cacca, non dico, tanto mai non andava per una testa. Boh, boh, non è possibile. Ancora esistono ste cose, che, per carità di Dio. Riprendi, Nathalie, un minuto, che Massimiliano si è spostato, che anch'io mi sto sistemando qua, è arrivata altra roba e la sto mettendo a posto. Già ci siamo noi Gianni. Gianni in giro sì, non ti sento Gianni in giro sì. Ciao Gianni, salitene in alto vai Gianni, se sei con la macchina vai in alto, a meno che non sia col portatile. Col portatile. Tutto lo guarderebbe il vero che uia Natali, ma te quanto è che ti arrivo io di segnale? Si può sapere che non me l'hai mai detto, che è pitina ui. Questo qui non lo so se è giusto, a me mi arrivi al più del 30, al più mi arrivi da al più alla moltiplicazione voglio arrivare io voglio arrivare alla moltiplicazione al più del 30 e vabbè dai già andate. Vediamo se Riccardo ci ha ripensato e è tornato. Riccardo ci sì, sì. No, Riccardo è alla ricerca di ex, ha la passione questo ragazzo e beato lui che anche con la passione, perché no, ma va bene. Gli ho stampato un paio di fogli di log, così si abitua a scrivere. Andate. Una mucca la mattina. Una moschina stiamo ammazzando. E di questo pugno al baracchino. Ma io quanto ti sto arrivando lì? Perché non me lo ricordo quanto ti arrivavo io lì giù. Perché questo è digitale. Non mi fido neanche, comunque arrivi al più tu. Ok, data lì. Modulati ne arrivi 9, 9 modulati ne arrivi, da 8 a 9. Già ti ascolto Gianni, e tu mi ascolti? Non è chiaro. Arrivi anche qua Gianni, arrivi anche qua, benissimo, non c'è problema, dai. Gianni, aiuto, vai ancora un po' più in alto, che stai incominciando ad arrivare anche qua. Sono in movimento, vai, sto facendo una scena. Già, l'hai vista quella radio? Grazie. Ehi, l'hai vista la radio che ti ho mandato? Ce l'avevo già, dai, l'ho pagata quanto tu stai dando quella modificata, per farti capire, capito? Hai un pacco di soldi costa questa, un pacco di soldi perché è praticamente è quasi un 0,30, però ti segna tutto nel display, non ne ha di cambio di niente, tu giri i canali e lei segna le frequenze e il canale, le frequenze e il canale, sono sull'80, mi segna la frequenza del canale 80 e in più segna 8,0, capito, sempre girando, poi c'ha gli alfa in mezzo, c'ha tutti gli alfa, come una sintonia continua. Registrato il break, non ho capito già, cosa hai detto? Questo è vabbè, il GTL, quello che avevo prima, dai, l'ho ritrovato, il GTL 200DX della Cobra. Avanti break, buongiorno. Hola. Bracco. Giulio, io non comprendo più un accidente in occhio. C'è la propagazione, c'è. Io ho sentito Ancona poco fa. Adesso data lì sì, 9,5 adesso. Un pochino è aumentato, adesso sì, 9,5. K. E modulate quasi 9,10, modulate. È una depropagazione con le brecche. cambia, la data gli cambia. La stazione Mike Gold con la chiama Bracco. Avanti, si chiama da frequenza 27075. La Sardegna in ascolto. CQ, CQ alla frequenza, la città di Sassari, Nord Sardegna, Italia, chiama Brecche. Oh, buongiorno, buongiorno Sassari, buongiorno Sassari, qui è la Mighty Golf, Maglio da Ancona, Centro Italia, mi ascolti? Cappa, un attimo, un amico che chiama Sassari, l'altro, sì, sì, collega di Ancona, ti ascolto molto bene. Ti ascolto molto bene, chi modula per te? Giulio, dalla città di Sassari, come ti ho annunciato poc'anzi, Nord Sardegna, Italia. Ok, avanti ancora l'amico di Ancona con il tuo QRZ e QRA anche. Sì, Giulio, sì, Giulio. Sì, Giulio. Michael Golf, ok, c'è un altro amico che sta continuamente chiamando, ma sto modulando con te, Michael Golf, dunque continuiamo noi, e poi l'amico, se ha pazienza, aspetterà. Sì, ok, ti ascolto molto bene, Santiago 9, 9, 5, 9, 10 a momenti, e la radio è discretissima, diciamo che da fra il 4 e il 5 a momenti, per effetto della propagazione, cioè per QSB che si nota sullo strumento. Avanti ancora, Mike Golfo, per Giulio e Sassari, K. Sì, Giulio, ti ringrazio. Al momento non piove, però diciamo che in giornata probabilmente un pochino ci sarà di pioggia, ma suppongo che poi va a migliorare nella serata, perché qua è un po' velata la giornata, un po' grigia, però diciamo che noi siamo a nord, io sono a nord, poi dall'altra parte magari no, penso che sia nel settentrione, penso che sia una giornata più vicinosa, sicuramente, perlomeno stando alle indicazioni del meteo, è così senz'altro. Ok, Mike Golfo, ancora a te, K. Ciao Giulio, buongiorno, Luciano qua, buongiorno anche all'amicaccio, vai. Buonanotte, Giulio, non davanti a me. Ciao Castrame. Ok, Giulio, ti ringrazio per questo piccolo forte abbraccio, un te e la tua famiglia. Ci risentiamo alle prossime occasioni di propagazione, Giulio. Un forte abbraccio da Ancona verso Sassari. Ciao Giulio. Saluta dalla costa. Ok Mario, grazie a te per il contatto, a risentirci presto, magari in condizioni anche ottime, perché oggi le posso considerare buone, però un collegamento con condizioni ottime sarebbe ancora meglio. Grazie ancora Mario, Mikey Golfo, dalla città di Ancona, alle prossime, grazie ancora per il contatto, ciao ciao, avanti Luciano. Buongiorno Giulio, buongiorno, è ben ascoltato, buongiorno anche, sembra Luca, ho sentito prima, gappa, dai, io in officina da Santieri ho ritirato il cavallino oggi perché ci aveva dei problemini e quindi eccoci qua di nuovo in circolazione, cambio basso, dai, avanti alla ruota. Ok Lucia, ti mando avanti Luca e poi ci dovrebbe essere ancora Claudio su questo canale che ti faremo venire avanti successivamente. Avanti Luca per Luciano. Lucianino Gattramina, buongiorno. Ehi Luca, buongiorno, buongiorno. Come avrai capito, dai, sto togliendo il cavallo dal dottore. Gli abbiamo tolto i guai. Per ogni cosa ci vuole il dottore, capisci a me, gatta? tutto forte e chiaro qua, dove si riuscirà? Gappa a Rogero, dai, adesso ce ne andiamo in direzione casa, anzi prima passiamo in casa, carichiamo un viaggetto. E per oggi è fatta, vediamo domani il tempaccio che cosa promette, se c'è sole lavoriamo, altrimenti buongiorno anche alla torre di controllo, sei in ascolto, cambio. Lucia, buongiorno, le sto facendo cosa, dai, un abbraccio, ci sentiamo tra un attimo, le sto mettendo a posto. Ciao Luciano, Natalino Alfa 1 qua da questa parte. Attento Luciano, hai sentito Natalino? È anche Claudio che ti hanno salutato. Claudio è impegnato comunque. Tu so che sei dalle mie parti perché mi si è adeguato oltre il 9 più 30, mi si è adeguato. Evidentemente sei nell'officina qui vicino dove hai ritirato la macchina. Bene, bene, Luciano, ti mando avanti di nuovo Natalino. Vai Natalino. Ciao Luciano, ben sentito. Luciano, ci mancherebbe. Natali, ti saluta Luciano, un perfetto di QRM, non ti sente? Non ti sente da zona bancari, per cui non riesce ad ascoltarti, ma c'è molta preparazione, il motivo è quello, Natali. Break. Un attimo. Cappa, l'ho sentito mentre lo diceva, vuol dire che era in una zona d'ombra poco fa, quando stavo parlando io. Cambia adesso la modulazione giù. Continuate la propaganda, vi saluto, buona giornata, buon tutto, alle migliori. Ciao Giulio a tutti. Ciao Luciano, grazie per essere entrato a salutare, alle prossime, vai. Buon lavoro a te, ciao ciao. Ti mando avanti Luca per salutare, vai Luca. Ehi, ciao Gattrami, dai, salutoni, alla prossima. Buon lavoro e buon tutto, ciao. Ti saluta anche Natalino, avanti Natalino, l'amico Luciano Chiuso, C'era un break, ciao Luciano, alle prossime. Avanti il break. Ciao a tutti, per il più piccolino, praticamente siete bombenti, vi si bomba una ciampa del guru. Ecco bombenti, siamo tutto liscio. Cara Torino attaccata ancora. E cosa ho attaccato che non ho niente da attaccare? Beh, che non arrivi mai questo segnale, Natalia, ti lo faccio a me. E arrivi a livello QRM, arrivi, va, è aumentato, caso strano. Non mi dici che sarà la brina, no? Che ne so, sarà qualcosa nell'antenna, non lo so. Natalia ho dato il coso della coccoma dell'antenna e sta pompando. Davvero? C'è quel Vicenza che chiama. Chi è che chiama Cagliari? Avanti, chi è che chiama Cagliari? Buongiorno. Sì, Maria Veneto che chiama. Chi è che chiama Cagliari? Avanti, buongiorno. Attenzione, è Sasso, è Cagliari, si ascolti Vicenza. Non è Cagliari, qua è Sassari, nord Sardegna. Avanti Vicenza, buongiorno. Gappa Raggia, ciao 73. Vincenza, da questa parte Luca, coordinate Sassari, nord della Sardegna, avanti, col suo nominativo, accompagnate tanti amici, avanti. Operatore Marcello, primo Vito Alfa 001 Marcello. Giallo Terme. Veneto, nord-est, nord. Positivo, dai, ti ho copiato con un po' di QSB Marcello, ti ha ascoltato bene, dai, diciamo, là. E niente, dai, ti rilancio l'amico Massimiliano, vediamo un po' se lo ascolti, avanti Massimiliano. Io sono rientrato, sono Marcello, buongiorno, ben sentito, Nord Sardegna la mia, dai, avanti per te Marcello. Raga, sto piatto attento, arrivi molto bene, non ho capito, no? Sono anche parecchie solo modulazioni, comunque Marcello. Io sono rientrato, ragazzi, buongiorno. No, che ci sono sopra modulazioni. Perché mi arriva Santiago 9, però a 9 sul QRM. Va benissimo qua. Sì, sì. Allora, non ti ascolta bene l'amico Massimiliano, dai. Sì, comunque anche lui di Sassari, dai, siamo tutti di Sassari qua. Tutti praticamente vicini vicini. Vediamo un po' se ascolti a Giulio Rolo, avanti Giulio, puoi far girare. Aspetta che stavo parlando ancora. Attento Marcello, ascolti Giulio da Sassari, capo? Sì, capo. Buongiorno, Giulio. Aspetta, qua te, Giulio, di nuovo per te, grazie. Le Catania. Sì, un attimo un amico di Catania per cortesia, o perlomeno della Sicilia, un attimino che voglio sentire se mi sente Marcello. Attento Marcello in Vicenza. Giulio, ti ascolta bene. Sono anche l'amico di Catania, che ascolto anche lui. Vai di nuovo con te Giulio. Giulio, ti ha rilanciato. Sì, ma c'è da una camorulazione, inutile andare a parlarci sopra, perché non, poi magari non capivo quello che diceva. Sì, attento l'amico di Catania, ascolti la città di Sassari, in compagnia degli amici qua, Massimiliano, Giulio, Luca, avanti. Ciao Salvatore, Natalino Alfa 1 qua da Sassari, un rapporto segnale radio, per cortesia se mi ascolti, K. Sì, certo che ti ascolto, mi fai Santiago 9.30, la radio Super 5. Ciao amico di Catania, se ascolti non Alfa 1, Alfa 21 da questa parte. Sì, Alfa 21, buongiorno, buongiorno anche a lei, provincia di Catania che ti saluta, non che le avanti per te cambio. Un attimo chi chiama Giulio, un attimo chi chiama Giulio. Sì, vabbè, andiamo più in ordine, però se no qui ci sovraccavogliamo anche fra di noi e non è possibile. Adesso l'amico di Catania ti manda avanti un ragazzo, un neo aspirante alla CB, Riccardino, dalla città di Sassari. Avanti Riccardo per l'amico di Catania. Ok, ciao Salvatore, se ho capito bene così è il tuo nome. Ti saluto, qui mi arrivi fortissimo, mi arrivi di segnale fortissimo, un 9.20, però la radio è un po' così, un 4, se mi ascolti. Riccardino, buongiorno, saluto te, famiglia, con forte abbraccio, Salvatore provincia di Catania che ti saluta, a te e tutti gli amici di Isola Calza, e dovete salutare a Gigi Vulcano, cambio. Lo faremo Salvatore, quando lo sentiremo, perché in questo periodo è un po' assente dalla frequenza Gigi Vulcano. Va bene, da parte tua, Salvatore di Catania, confermi? Sì, confermo, ti basta che ci dici lo stesso filmato che ti sono. Ok, d'accordo, sarà fatto non appena lo sentiremo, Va bene, qui ci sono degli amici che ti ascoltiamo tutti quanti. Ti mando avanti Massimiliano, avanti Massimiliano, per Salvatore. Positivo, dai, non so se mi ascolta l'Espresso 50, vai. Ciao Salvatore, Massimo Bulldozer che ti abbraccio e saluta. Ciao Salvatore, ben ascoltato dopo una marea di tempo, dai, tutto Ruggero qua, stavamo facendo un piccolo QSO, però c'è tanta propaganda, la cosa è bella, dai. Vai Claudietto per Salvatore, Claudio Sparviero, vai. Ciao Salvatore, vediamo un po' se ascolti Sparviero, Claudio da Sassari, Salvatore, cambio. Ecco, ci può la frequenza. Cappa Salvatore, anche tu c'hai un ottimo segnale, ottima radio, complimenti. C'è un sacco di gente che sta parlando qua e io sto andando con circa una cinquantina di watt modulati, quelli che dà la radio. Avanti Lugarie, cambio. Vediamo un po' se Vediamo se mi ascolta a me. Attenzione Salvatore, se si ascolti Luca qua. Buongiorno. Buongiorno. Comunque Chichino Vulcano appena entra in frequenza te lo salutiamo, non ci stanno problemi, dai Salvatore, la cosa è bella, c'è un po' di cacciara, un po' di cacciara, cambia. Ragazzi, 45 impressionante. Dunque, segnali, tante persone che chiamano, è così, purtroppo è così, lasciamo andare avanti, dai. La propagazione è quella che è meglio così, approfittiamone quando si apre, quando invece non c'è magari la desideriamo, non è così, Massimiliano. Sì, sì, positivo, positivo, infatti era già un po' in ritardo qua, Era un po' in ritardo, capito Giulio? E oggi però c'è un po' di casino in tutti i canali, Ma va bene così, dai. Riprendi Salvatore, che la cosa è bella da parte vostra, dai, tutto Rogero. Ecco da Genova. Un attimo Genova! Positivo, dai, ciao Salvatore, allora, ti abbraccio, buona di giornata e ci sentiamo nel prossimo, dai. Bulldozer ti sta salutando, tutto Rogero, ciao! Ci vedi a Saturno, sono no. No, aspetta che c'è Genova. Attento Genova, se ascolti Sassari. Sì, capa dai, qui Genova, qui Murdoch, operatore Stefano, provincia di Genova, Riviera di Levante. Ok, ciao Stefano, che mondo va per te, Giulio, in compagnia di Massimiliano, Claudio, Luca e anche Natalino, qui nella città di Sassari, Sardegna. Avanti ancora, capa. Sì, capa, dai, ben sentito, Giulio, se non ho capito male, da Sassari, dai, qui è località Camogli, vicino a Portofino, dai, mi fate molto bene la propagazione, avanti per te. Ok, sì, anche tu arrivi bene, tu mi fai 9 di Santiago e 5 di radio, ok, ti mando avanti Massimiliano, sempre dalla città di Sassari, avanti Massimiliano. Positivo, dai, ciao Stefano, buongiorno, 7-3 cordiali e ben ascoltato. È molto raro qua in Sardegna che arrivi Genova, è proprio raro. Ok, io ti ascolto, 9-10, radio Super 5 la tua, vai Stefano se mi hai ascoltato. Sì, sì, capa, ti ascolto benissimo e vi ascolto tutti molto bene, con segnali 9-10, radio 5, perfetti, dai, oggi gioca a favore la propagazione, dai. L'amico che mi ha appena passato il cambio, vai. Ok, dai Stefano, io invece ti rilancio qui il Riccardino, che vedrà lui poi di far girare, vai, così io mi sposto un attimino di canale, scusate alla questione, io mi sposto un attimo di canale, vai tu Riccardo, riprendi e fai girare. Ok, grazie Claudio, ciao Stefano, ben ascoltato, come ha detto Claudio è raro che arrivi da Genova, non avevo mai sentito da quelle parti, comunque ti saluto, oggi con la propagazione siete tutti forti. Il Torino ha copiato perfettamente, dai, qua mi fai Santiago di 8, radio 5, il problema è che c'è un po' troppe saturazioni sotto e ho molta difficoltà a ascoltarvi, ma non è quello, dai, segnale ottimo a radio perfetta, vai Riccardino. Ok, grazie Stefano, sì, oggi con la propagazione si stanno tutti schiacciando, come le pecore, quando sentono la propagazione vanno tutti da una parte. Vediamo un po' se ascolta me Stefano, mi ascolti? L'amico che mi ha chiamato lo ascolti Torino Nord Italia. Sì, un attimo Torino, buongiorno Stefano, dai, salutoni Luca qua, coordinate Sassa, che arrivi benissimo, con un po' di QSB ma ti ascolto benissimo, non ci stanno problemi, avanti Stefano se mi hai copiato. Sì, ti ho copiato, perfettamente, dai, tuo segnale oscillante da 6 a 9, ma ho detto un problema di propagazione, perfettamente, dai, anche orario 5, perfetto. Positivo, là. Avanti Torino, se ascolti Sassari, buongiorno. è un casino, no? Grazie, sì. Già ci sono io, sì, vediamo un pochino qua. Attenzione, centro, nord e sud Italia, ascoltate l'isola della Sardegna. Claudio Sparviero che chiama, col buongiorno a tutti, avanti. Col Torino, cambio. Forte e chiaro Torino, buongiorno, Claudio Sparviero qua dalla punta del nord della Sardegna. Un saluto circolare a tutti, arrivate tutti magnificamente bene, ok? Ok, salutoni, grazie per il collegamento Sparviero, sono Davide Elettrico in Venaria Reale, provincia di Torino. Oggi giornata di sole, non so com'è il vostro tempo, comunque ti ascolto molto bene, un 9-10, una radio 5, cambio. Cappa, molto bene, 9 più 10, arrivi magnificamente anche tu qua in nord della Sardegna, eh? Ok, siamo qua in questo locale, comunque va bene così. Allora faccio girare per Giulio, così ti saluta, vai Giulio. Ok, attento collega di Torino, della provincia di Torino, se ascolti Giulio da Sassari, K. Un attimo, Santiago di Nord, più 5, una radio 5 potentissima. Buongiorno qui da Davide, operatore Davide, Davide Elettrico in Torino, Venaria Reale, provincia Torino. Ancora a te Giulio. Rilanciato Giulio, vediamo un po' Davide, ascolti Luca qua, nella città di Sassari, avanti. Ascoltato anche a Luca di Sassari, buongiorno a te, saluti qui in provincia Torino, nord Italia, cambio. Oh Giulio, ti stavo già rilanciato, non stavo parlando. Che ti ha chiamato? Sì, sì, sì, Torino, ti ascolto segnale 9 più 10 qua, eh. Non so come mi ascolti, comunque da questa parte Luca, avanti Torino. Oh, Davide, attento Davide, hai ascoltato Luca che ti ha chiamato? Oh, molto collegamento, Antonio che chiama, Maria, provincia di Torino, nord Italia, cambio, tutti da Davide. Ok Davide, no, c'è stato Luca poc'anzi che ti ha chiamato, non so se l'hai ascoltato, forse c'è stata qualche sovrammodulazione, comunque te lo rimando avanti, vediamo se lo ascolti. Avanti Luca per Davide Torino. Ciao Davide, mi ascolti? Buongiorno. Sì, molte sovrammodulazioni, ho ascoltato anche un po' di cambio. Positivo, dai, c'è molta propaganda e purtroppo segnale va e viene, dai. Ti ho ascoltato segnale 7 in mezzo alla propaganda, Davide. Vediamo un po' se mi hai copiato. C'è un casino. È un po' negativo, c'è molte sovrammodulazioni. Aspetta, lo chiamo io. Davide, ascolti Claudio Sparviero dal nord Sardegna, Davide. Ciao Davide, buongiorno, Claudio Sparviero qua dal nord Sardegna, città di Sassari. 5-9, il segnale per te, cambio. Sì Sparviero, perfetto, anche tu potentissimo, hai sovramodulato tutti. Un segnale molto forte, 9-10, 9-15 qua. Ti ascolto, la programmazione è molto, molto in tua direzione, ti ascolto fortissimo Sparviero, sono a te Sassari. Sì, questo Davide, vabbè, io sono su una montagna e sto andando con un baracchino non omologato che c'è un po' di potenza, eh. Molto bene Davide, ok, ti salutava Luca qua da Sassari, ma la propaganda c'è un pile-up allucinante, veramente uno sopra l'altro, quindi se non andiamo con un po' di potenza non riusciamo ad entrare. Ti passo Giulio per i saluti, vediamo un po' se lo ascolti Davide, vai Giulio. Ok, attento Davide, riesci ad ascoltarmi ancora? Io comunque ti saluto e ti ringrazio per il contatto, poi mi dirai, ok, poi ti farò anche salutare dagli altri amici qua della Sardegna. Avanti Davide, ti sei ascoltato ancora Giulio da Sassari. Sì, ti ho ascoltato forte, in certi momenti mi sei arrivato a 9:20, ti ho ascoltato forte in questo momento Giulio, mi sei arrivato fortissimo. Per vedere se c'è qualche altro amico che vuole provare a collegarmi, cambio. Ok, d'accordo, grazie ancora per il contatto. Ti saluto ad ogni modo, però ti mando avanti anche un altro amico qui da Sassari. Vediamo se riesce ad ascoltarlo. È in condizioni un po' precarie, ma probabilmente con la buona preparazione che c'è oggi riuscirai ad ascoltarlo. Natalino, avanti. Ciao Davide. Ben sentito, volevo sapere se mi ascoltavi tu. Ok, un salutone dalla Sardegna. Sì, ti ho ascoltato a te, un po' tardino, purtroppo c'è anche molto questo B. Comunque ti sei arrivato. Visto, mi ha ascoltato lo stesso. Anche se sono bassino. Sì, ti ho ascoltato, dai. Mando avanti gli altri amici per salutarti ancora Davide. Vai Claudio per chiudere con Davide e poi Luca, vai. Oh K, molto bene Davide, un abbraccio qua dall'isola della Sardegna, Claudio Sparviero che ti saluta e ti augura la buona giornata. Arrivi molto bene, quindi io non ho problemi ad ascoltarti Davide, ok? Un abbraccio e grazie per essere intervenuto qua per l'isola sarda, cambio. Grazie Sparviero, buona giornata a tutto il vostro QSO e grazie per il collegamento con la vostra bellissima terra. Grazie e a risentirci nelle migliori condizioni, grazie di tutto. Luca? Ciao Giulio! Attento Davide, ti mando un neofita nella CB, un ragazzino di solamente 13 anni, vediamo se lo ascolti, che lui naturalmente sta spasimando ed è giusto che sia così, data la sua età. Avanti Riccardino per Davide Torino. Vado avanti, ciao Davide, ben ascoltato, sì anche da questa parte arrivi forte, anche se ho l'antenna non è neanche molto alta, sono un po' in un buco, però comunque ti sento forte, ti saluto e ti mando avanti Luca se ci sei ancora. Ciao Davide, dai, non so se mi stai ancora ascoltando, buon proseguimento, buona carica e buon tutto alle prossime, dai, propaganda permettendo, ciao. A tutta la Sardegna un abbraccio a te. Ci può il canale, ecco, buongiorno. Attenzione alla frequenza, è da Genova che sta chiamando, Sardegna, sono in copiata, date un buon occhio a Genova, è la posizione del mio paese, è Genova, operatore. Non sento più nessuno. C'è poco di gente che sta chiamando, mamma mia come sto, va bene. Giulio, quanto è il segnale che da te? 9 e 18 qua. Aspetta, così basso è? Basso ti sembra, aspetta, 9 e 18 è basso. Va bene, dai, ok, pensavo molto di più, vabbè che quella radio quello dice, quello è... Va bene, avanti allora, chi tocca, chi ci è rimasto in questo canale, qua un saluto a tutti, chi ascolta Sparviero dall'isola sarda, un saluto e un abbraccio a tutti, centro, nord e sud Italia, gappa gappa. Con il buongiorno qua la Toscana che risponde con il buongiorno sia al che hai fatto la chiamata ora. Giulio, se copia qua la Toscana. Certo che copia la Toscana, ciao collega della Toscana, Giulio che ti risponde con piacere, dalla terra sarda, la città di Sassari, nord Sardegna, e ti manda avanti l'amico Claudio che ha fatto la chiamata lui e probabilmente merita per primo di essere contattato. Avanti Claudio per l'amico della Toscana. Sì, buongiorno Toscana, qua l'isola sarda, Claudio Sparviero l'operatore, buongiorno, un abbraccio. 5-9 il segnale per te, non c'è problema, avanti, cambio. Buongiorno l'amico della città precisamente in Lucca. Buongiorno, ben ascoltati, mi fa piacere arrivare. della Toscana. Mi dispiace perché alle volte ci sono delle sovrammodulazioni, dunque, però ti ascolto molto ma molto bene. Sentavo 9.5, 9.10 anche per te. La radio è ottima, naturalmente c'è un po' di QSB come è giusto che sia per effetto della propagazione, però la modulazione è perfetta, quando mi giunge il momento pulito della ionosfera e non c'è problema nell'ascoltarti. Ti mando avanti un ragazzino della città di Sassari, che è uno che si è appena approcciato alla CB. Avanti Riccardino, per l'amico della Toscana, K. Ok, grazie, lo saluto, ciao amico della Toscana, e ti volevo chiedere se per caso mi potresti esporre il tuo QRZ. Riccardo Oferdino, insomma, appena ascoltato anche te, mi fa un bel segnale, 9 più qua, in Toscana, precisamente la città è Lucca, informa Charlie Chagata. In Lucca, qua in Toscana, ma arrivi molto fermo, molto forte, Riccardino lì, 9 più 10, bella la tua presenza, audio, forte, nord Italia, la provincia di Genova, città di Lucca, in Toscana, arrivi molto forte, essere da nord Italia, la provincia di questa passione, la radio antistica, complimenti di nuovo, non la abbandonare. Poi fatto bene, meglio ancora. Allora niente, Claudio di nuovo per te. 5SL Lucca mi sembra in Toscana, arrivi molto bene, solo che ci sono altre modulazioni, quindi c'è un po' di casotto in Lucca, però arrivi molto bene, ok? Il cambio per Lucca qua di Sassari, avanti Lucca. Forse Lucca di Sassari si è spostato su un altro canale? Attento l'amico di Lucca in Toscana, ascolti ancora Giulio? Molto forte, molto nitida la tua modulazione, Giulio, prego, avanti. Ok, anche tu non scherzi, anche tu non scherzi, sia per il segnale che per la radio, mi fai da 9 a 9.10 e la radio è super 5, super 5. Ok, ti mando avanti anche l'amico di Sassari, Natalino, vediamo se riesci ad ascoltarlo, purtroppo lui è in condizioni un po' precarie, però diciamo che bene o male riesce ad arrivare anche a te, ne sono più che certo. Avanti Natalino, per l'amico di Lucca. Natalino, ci sei? Mi dispiace, amico di Luca, mi dispiace, ma Natalino evidentemente si è spostato, non saprei cosa dirti. Va bene, Luca, come va lì a proposito? Il fatto di coronavirus, qui a quanto sembra la situazione sta migliorando, lì da voi com'è? Ecco. Benissimo, benissimo, dai, no, e qua la situazione del Covid-19, il coronavirus, sta molto migliorando, e contagi zero, quindi per ora facciamo gli scongiuri e va tutto bene, fino col dì, e in questo momento è molto nuvoloso qua, e ogni tanto sta passando, poi smette. La Italia, la città di Genova, operatore Luciano. Ha detto Nicoli, la Nord Italia, la provincia di Genova, è chiamata. Questa stazione. Avanti Riccardo che ti ha rilanciato, poi c'è un break, fatelo passare. Sì, scusate, l'hanno coperto all'amico di Lucca. Comunque lo ringrazio, sì, anche lui è molto forte. Fino a poco fa era fortissimo, era un Santiago di 9.20 e una radio di 5, perfetta. Benissimo, vieni molto bene anche te lì, Riccardo, e quindi... Riccardo, mi ha fatto veramente piacere parlare con voi. Giulio, il microfono per te, ascolto i finali e poi faccio il QRT causa pranzo. Prego Giulio. Cristian, il piacere è tutto mio, il piacere è tutto mio, è stato un bel collegamento, speriamo di risentirci presto, in quanto è molto piacevole fare collegamento con voi della Toscana e anche con il resto dell'Italia, chiaramente. Io ti saluto e ti ringrazio ancora e ti mando di volta in volta gli amici per salutarti per la chiusura. Ok, grazie ancora, un abbraccio. Ciao Cristian, Giulio Dollaro dalla città di Sassari che ti super saluta e ti manda avanti Claudio Spalviero per la chiusura. Vai Claudio. KQSL, molto bene. Ciao Luca, allora un abbraccio, un saluto, grazie per essere intervenuto qua sul collegamento per il nord Sardegna. Ok, ti mando avanti Natalino per i saluti, poi ti saluta anche Riccardino, ma c'è un break qua a Sassari, avanti Natalino. Attenzione Sassari alla Sicilia. Un attimo alla Sicilia, un attimo per cortesia, ti chiamo subito io, attento amico della Sicilia, non ti stiamo trascurando, un attimino solamente perché ci sono altre sovramodulazioni. Avanti Riccardo, per chiudere con Cristian da Lucca, vai Riccardo. Anche Riccardo si è allontanato, ma insomma così non si fa, così non si fa, non si può allontanare uno senza chiudere il collegamento e salutare l'amico. Va bene, Cristian, scusa gli amici che non si presentano a parlare con te per fare la chiusura di questo collegamento. Comunque ti saluto io da parte loro, alle prossime, a risentirci, grazie ancora, un abbraccio. Giulio Dollaro che chiude con te. Ciao Luca, grazie ancora, ciao Cristian, ciao dalla città di Lucca, ci sentiamo alle prossime. Ciao Cristian, scusa se non ti ho salutato, stavo mettendo le cuffie. Giulio, un attimo, l'avevo sentito mentre stavo mettendo le cuffie, che me le stavo mettendo nelle orecchie e non l'ho sentito. Arrivate a bomba. C'è un break a Sassari, Giulio. Adesso lo facciamo venire avanti. Un attimo gli amici che chiamano da fuori, facciamo entrare il break della Sardegna, avanti, chi è la break? Ciao, buongiorno a tutta la ruota, qua Genero Profeta, qua da Sassari, un salutone circolare a tutti ragazzi, avanti Spalviero. Ok, ciao Gianni, buongiorno, ben ascoltato, come vedi c'è un bordello nero, comunque stiamo riuscendo a mandare avanti la baracca, vai. Bene, ciao Giulio, ciao Riccardino, non so chi ci sia in ruota, l'ho acceso 2 minuti fa, comunque avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, Lubofetta, adesso fra un po' ti mando anche per fare collegamento con gli amici della Sardegna. Circola frequenza, la città di Sassari fa chiamata in generale sulla banda della 27 MHz. C'è qualcuno che ascolta Giulio da Sassari, K? Giulio, ecco. Uno per volta per cortesia. Attento l'amico di Caltanissetta, avanti con la buongiorno K, Giulio Dolla da Sassari. Giulio, io rimango in quel rix. Va bene qua. Un attimo la Madre Nostra, mi dispiace cari colleghi, mi dispiace, ma se chiamate tutti insieme non è possibile fare il collegamento perché purtroppo vi annullate a vicenda, i segnali sono tutti fortissimi, però sovrapponendosi non è possibile fare il collegamento. Facciamo un attimo di quarricchi per cortesia, io chiamo in collegamento l'amico della Valle d'Aosta, avanti Valle d'Aosta per la città di Sassari, Giulio che ti super saluta, capa. Val d'Aosta, anche tu fai 9 Radio 5, ti mando avanti anche gli amici qui da Sassari, ti mando avanti l'amico Gianni, il profeta, avanti Gianni per l'amico della Val d'Aosta. Buongiorno, saluti ricambiati qua da questa parte, sempre Sassari, Gianni qua l'operatore Lubrofetta, purtroppo c'è un sacco di bordello, quindi riesco a malapena a sentirti. Comunque ricambio i saluti e te li rigiro, avanti la Valle d'Aosta, non sono riuscito a copiare il nome dell'operatore, avanti. Lubrofetta. In casa, sovramodula, non ti ho ascoltato giusto. Ok, saluto l'amico che sta chiudendo, un abbraccio anche a te e a tutti gli altri che sono in ascolto. Anch'io rimango in quei ricchi perché è diventato quasi impossibile poter continuare per effetto delle sovramodulazioni. Comunque sono contento di aver modulato con voi e ringrazio tutti quelli dell'Italia, dalla Bassa Italia all'Alta Italia. Un ringraziamento particolare da Giulio Dollaro, della città di Sassari. Io rimango in quei ricchi e mando ancora avanti Gianni Lubrefetta. Vediamo un po' se riuscite ad ascoltarlo, perché poc'anzi c'è stata una sovramodulazione e probabilmente non siete riusciti ad ascoltarlo. Avanti ancora Gianni, io rimango in quel ricchi. Grazie ancora a tutti, per me quel ricchi, vai Gianni. Eia, sì, un salutone a tutto lo stivale qua dall'isola Sarda. Ci sono un sacco di segnaloni qua che arrivano uno sopra l'altro, è veramente molto molto difficile riuscire a fare anche un piccolo collegamento, quindi qua da queste parti, da queste coordinate, lo stesso è molto molto molto difficile. Comunque 7-3 a tutto lo stivale qua da Sassari, giornata uggiosa. Comunque salutoni a tutti quanti, mando avanti Riccardino se ne copia, avanti Ricca. Attenzione Sassari, si ascolti la Sicilia centrale, vi chiamo. Attenzione Gianni Luca Fetta, se tu ascolti Luca qua, coordinate Sassari, avanti. Ciao Luca, buongiorno. ci sono un po' di bordello, dai, un sacco di sovramodulazioni qua. Saluto il mio amico della Sicilia che chiama, ma veramente mi risulta veramente incomprensibile ascoltarti. Ok? Avanti Riccardo se ci sei. Oh, che vero canarino, non entri per un canarino sotto, ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare che sei talmente piccolo? Che cazzo ti metti a disturbare? Sei un nano, sei un nano. Vediamo un po', attenzione la Sicilia, Torino, non lo so, boh, avanti Sud Italia, Alto Italia, se ascoltate Sassari, avanti. Avanti Sassari, per la Sicilia centrale, Romeo Gialli in San Cataldo, provincia di Caltanissetta, ti ascolta. Buongiorno Caltanissetta, buongiorno, dai, tuo segnale 9:10 qua, Da questa parte l'operatore Luca Manicomio, avanti. Ok Luca Manicomio, 73. Segnale quest'ultimo 9:10, radio 4, avanti. E niente, cosa che ti racconta lì in Sardegna? Beh, ieri, avanti ieri pioveva, oggi no, e domani ha messo un po' di gradi, 27 gradi da domani, domani, dopodomani, domenica, bello, tutto bello. Ok, anche con la parte nostra la stessa cosa, e ti dirò di più, oggi mi gusto un poco di formaggio sardo che ho appena acquistato. È positivo, è buono il formaggio nostro, dai. Formaggio, il vino, le donne sono buone. Avanti, chiama la Sardegna, buongiorno. Avanti, permesso prova. Buongiorno Catania, dai, questa parte Luca, avanti, buongiorno. Segnale tuo 9:05, avanti. Io mi trovo a Sassari, nord Sardegna, Sassari, sono in compagnia di tanti amici, Claudio Spalviero che sta uscendo con un antennino sopra la finestra, e Antri Gorra di chi si prende la portante, avanti Claudio. Lascialo va, siamo fatti bene, c'è un nano, ancora non si è accorto che è un nano, che non disturba nessuno e continua a rompere le scatole. Buongiorno qua da lì. dall'isola Sarda, Claudio Sparviero, l'operatore Claudio, cambio. Buongiorno anche a te, buona giornata, dai, con un'antenna piccolina qua, sopra il davanzale della finestra, spero che tu mi ascolti, cambio. Ok, è entrato, Allora funziona questa antenna, Luca, hai visto che funziona questa antenna? Ammazza, te ne vai a te, Edo. Avanti, Giulio. Enrico Rodriguez. Come si chiama questo amico? Fabrizio. Attento Fabrizio, ascolti Giulio da Sassari? Ascolto, modulazione è 8-4, è un pochettino disturbato da altre sulla modulazione, ma ti ascolta abbastanza bene. Viva la Sardegna, viva il Chinuta. Ok Fabrizio, anch'io ti ho sentito un po' basso perché c'è stata una sovramodulazione, purtroppo oggi la giornata è affollatissima, la frequenza è affollatissima, dal momento che c'è propagazione, chiamano dappertutto, dall'Alta Italia alla Bassa Italia, per cui non è escluso che si possano sovramodulare qualcuno. Va bene, ti mando avanti Gianni il profeta, la Sassa di sempre, avanti ancora Fabrizio, poi lo chiami tu Gianni da Sassari. Niente, qua oggi la propagazione veramente è spettacolare per il centro Italia e da parte nostra. E poi ti dici come che mi ascolti tu, va bene? Avanti per te Gianni. Ciao Fabrizio, buongiorno, una stretta di mano dalla Sardegna da Trinacria, buongiorno. Segnalone qua 7-8, poi con un po' di bordello di altri segnali che arrivano. Comunque salutoni qua da Gianni, Sassari, Nord Sardegna, insieme qua al questore locale e vari amici che entreranno di volta in volta. Niente, rinnovo i salutoni e ti rilancio il mic, avanti. Scusate se entro io così, volevo salutare a Fabrizio e a tutti gli amici italiani che sono entrati qui al Alfa 21, a questa parte, è operatore Riccardo. Da dove moduli Alfa 21? Come tutti su canale 10, modulo il QTH di Sassari, un po' in periferia di Sassari. Perché sei qua dietro, con Toscana? Lo so, perché ho messo da poco l'antenna nuova e no, come ho detto sono al QTH di Sassari, un po' in periferia. Che antenna hai messo? Come antenna ho messo una Sirio Blizzard 2700, 5 ottavi d'onda. Hola, hola. Riccardo, cosa ti ha detto? No, mi sono perso un attimo, l'hanno coperto, che cosa ha detto? Che stai arrivando fortissimo a Caltanissetta, arrivi fortissimo, fortissimo, va bene. Perfetto. Attento Romeo Cialdi, ascolti ancora Giulio da Sassari? Sì, Sicilia, ti ascoltiamo un attimino solamente. Attento Romeo Cialdi, ascolti ancora Giulio da Sassari? Confermo, ti ascolto sempre forte e chiaro. Ok, va bene, dai. Io chiudo il contatto con te e chiamo l'altro amico dalla Sicilia, Ciao Romeo Cialdi, salutoni, un abbraccio da Giulio Dolla dalla città di Sassari. Avanti l'altro amico che chiamava dalla Sicilia. Ok, da parte di Romeo Cialdi c'è Fantasia alla Sardegna, un salutone alla Sardegna, ok? Grande isola. Ok, ricambio il saluto non solamente da parte mia ma anche da parte degli amici che adesso di volta in volta ti mando avanti per il saluto. Avanti Claudio per salutare l'altro amico della Sicilia. Ok, buongiorno, qua Claudio Sparviero dall'isola Sarda. Arrivi 5-9, un saluto circolare anche alla altra isola che è la Sicilia. Buongiorno, avanti. con molti disturbi, è comunque l'importante che ci ascoltiamo, va bene, va bene. Il cambio per Luca, vediamo un po', Luca, ti rimetto il cambio, vai. Cazzo Lucaria, mi hai rotto le balle, eh. Cazzo, sta proprio saltando, è un soldato veramente, da un canale all'altro, e mamma mia come sto, vai Ricca. Ok, entro io, sono un po' tutti gli amici della Sicilia, che stava, non mi ricordo il nominativo, me ne ho segnato così tanti che ho perso chi dovevo salutare. Hai perso il filo, là. Certo non riprendi, ma mandi ci andendi. Se parlano, cosa mi viene anche a fare? Cosa? Se parlano, cosa mi viene anche a fare? Parlano. Allora, stavo modulando, credo, perché non ho ripreso. Ma stava modulando, aveva già finito, lui stava modulando un altro. Vabbè, dai, riprendi, Giulio. Vediamo un po', Sicilia, ascolti Sassari. Non sento un cavolo qua. Ehi, sono tutti ammontonato come il canale 45, non si riesce a fare questo o così. È troppo la propagazione, cioè il pile-up è troppo incasinato, capito? Skippy lungo, pile-up, è tutto incasinato, dai, parlano tutti uno sopra l'altro, quindi non si capisce un cacchio. Quante ricorda di si pone l'abortante? Allora, quanti su burro d'ome pone l'abortante che non arrivi da non gara l'andriga? Ah. Ma più corri e due usa di gioca. Una portantina mettila con l'antenna grande, così faccio prima a dire chi sì. È inutile che usi il dipolo per mettere la portante, guasto. Io come sto, per carità, lasciamo perdere, va. Natalino, mamma mia come sto. Oi Massimino Bulldozer, te l'hai fatti due collegamenti, cambio. Non si dico tutto oggi, dai, la cosa è bella, sparghie, cambio. C'è io sabio. Attenzione, Massimiliano Bulldozer, se tu ascolti Luca da Sassari, cappa. Non si dico, dai, tutto oggi, calata di direzione sud della mia, tutto a posto, cambio. Ascolto con un po' di cacciara, cacciara, capisci a me, frate, cappa. Avanti, Gloria. Ho agganciato il B300 con la potenza minima, ho dei picchi, in terza marcia ho dei picchi a 150. Vedi che spinge quando c'è la radio che spinge. Bene, dai, già mi sentono tutti e sono contento così. Figurati quando la sposto, la metto al suo posto originale, molto più in alto, e magari quando monterò quella originale che mi porteranno fra alcuni giorni. Va bene, va bene, sono contento di essere riuscito a fare una buona antenna, perlomeno di aver realizzato un prototipo copiato naturalmente, non certamente di mia invenzione, ma bensì l'ho copiato, perché io lo dico chiaramente, non come fa qualcuno che dice che sono le sue antenne, ma che antenne, che le hai copiate anche tu. Avanti Claudio. Giulio, abbiamo imparato che ognuno dice la sua, capito? Però ci vogliono fatti, non parole. Fatti, non parole. Cambio. Direi proprio di sì. Vabbè, comunque, lasciamo di